così. Thank you. capito, se conta quanto è grassa, più grassa è appena appena di sale in più ci vuole, se è magra ci vuole sempre meno sale. Comunque, io al limite il 25, dipende com'è la carne. Niente, te lo ripeto, metto il vino bianco, un po' di vino bianco con l'aglio a macerare, poi glielo mischio in mezzo, gli metto il sale giusto che ti ho detto, il pepe non esagerato, un po' di peperoncino e un po' di noce moscata, non tanto, un po' di noce moscata, capito? Però a volte capita che qualche partita la faccio, gli metto un po' di semi di finocchietti, quelli che raccolgo in campagna, e mi piace anche il gusto, non sempre, però non metto altri ingredienti in mezzo, non ci aggiungo altro niente. Sale un po' di giorni, poi la lavavo in vino bianco quando è faccio sempre ogni anno, dico la verità. E oggi non avevo nulla voglia, me la sono fatta un po', me la sono fatta e ne farò altro, però non lo so, mi hanno invitato e qualche, lo sai tu già, tu sei a corrente, sì. Strada, non è coincidono magari con le ore che fai tu, già, ma comunque potrebbe sempre capitare una mattina che magari ti alzi più prima e prendi il caffè con loro, non c'è problema, grappa grappa. Ok Gigi, facci sapere una settimana per quella cosa lì e vediamo, dai. Positivo, dai, positivo. Vediamo un po', dai, però non lo so, vediamo, dai. Cosa volete di Cafalche? Vediamo un po', dai, ci penseremo, dai, a quando è sabato, vediamo com'è la situazione. Va bene, va bene, cappa, cappa, già va bene, dai. Non so quanti chili ne ha fatto l'altra sera, sto quando compì un cento, non so quanti chili ne ha fatto, ma dimmi il vino di quel vino che lasciano 4 o 5 giorni prima di chi, di metterlo nelle punte di quello, di fatto rimanere sull'acqua lo lasciano. No, te lo so dire dove lo lasciano, io lì dove ci ha invitato ad andare lui, io ci sono già andato anche da poco, ci ho mangiato lì, perché capita ci passo del lavoro io, capita a mezzogiorno lì, io vado a una camma a caricare il macinato di granito che è proprio a un chilometro, neanche un chilometro e mezzo da questo agriturismo dove c'è il fratello di Pinocchio, dove c'è questo coso. E a volte il progetto viene a prendermi quando sono lì, dai, mi ci sentiamo, viene a prendermi e vado a prendere con loro, capito? Però io ho visto che non so come cosa, questo vino è ottimo, buono perché a me piace, dico la verità, io l'ho gustato, un po' grosso rimane grosso, però è un gusto buono, a me piace, dai. Sì, già lo so come già, mia moglie lì è buona famiglia, saranno come quel vino che fanno in montagna, chi di dingere, tanto ne ho portato una volta, ma cosa che lo dici, grosso, però è gustoso, ti lascia proprio quel sapore quando lo tiri nell'uva, è proprio buono, e lo fanno così, lo lasciano 4 o 5 giorni prima di buttarlo nella botte, riprendi un po'. Positivo, positivo. E va bene. Adesso vediamo, sacrifici si possono fare, è ovvio che non ci si gioca la patente per andare a fare visita a un amico. Bisogna avere un po' la testa attaccata al collo e cercare di andare con i piedi per terra, dai, tutto lì. Purtroppo oggi la patente è molto difficile, poi tornare, va bene così. Se faremo un sacrificio si farà tranquilli, sereni, poi io ripeto, se no e no, io se lo passerà poi cosa sta tranquillo o sereno, cappa cappa, riprendi. È positivo, positivo, non se vado lì devo guidare io per forza, guido io, se non sono mai stressato. Se vado lì devo guidare per forza io, perché e purtroppo è così, se non rimango troppo stressato io. Sì, sì, sì, Gigi, non c'è problema, guidi tu che guida, non c'è problema, l'importante è che ci sia almeno una persona tranquilla, perché è giusto che sia così, dai, per quello, per i tempi che corrono è meglio che sia così, dai. Io, a parte che conosco bene la strada a memoria, la conosco bene, poi sono ogni giorno sopra la strada io viaggiando, capito? Sono ogni giorno. Guarda che a me, quando è successo, giovedì, ne ho beccato uno sulla 131, che non me ne sono neanche accorto, quando ce l'avevo già al fianco me ne sono accorto. E ha preso, è entrato contro mano, non so come, lì a Oristano, lì a Simaci, è entrato a vivere Simaci, ma a tutta velocità a me questa vettura, non ho visto se era uomo o se era donna, cazzo in corsia di nostra, diciamo nella corsia di direzione verso Sassari, e lui era salito dalla parte opposta a Guadagnare, ma a tutta velocità stava andando. Porca miseria, è un casotto. Quando c'è nevo a Cagliari a fare il corso di autotrasporto prima di andare da me, 6 mesi ci sono scelto, prima a Cagliari poi mi avevamo avvicinato, ci svolgeva da 6 mesi, lì qua c'era la strada dopo che c'è stata, ma ne uscivano più di sera. Buonasera, chi è Sandro, tu sì? Eia, ciao Gigi, mi sembra che sia anche zio Forchetto. Ciao Gianni Capri 2. Buonasera Sandro, mi ha sentito, e certo Gianni Capri 2 qui. Ero un paio di giorni, anche tre, senza entrare in causa. Raffreddore, non mal di gola, però ero rauco, perché se insistevo a parlare mi veniva tanto per sé, che quindi ma c'entravo, salutavo e niente, ok, sì, sì. Ti rilancio entrato di nuovo Sandro, iaia, cappa cappa, il mic a te Sandro. Ok, dai già, cosa vuoi che ti dica? Sono gli acciacchi di stagione, purtroppo quando arriva ce li prendiamo, bisogna incappucciarsi bene e è tutto. Ciao Gigino, riprendi? Positivo, Sammy, io sono un po', si sente forse dalla voce, sono un po', non mi fa male la gola, ma sono rauco, vedi, sono un po' preso, però non è che mi prenda tanto forte a me, forse sono abbastanza forte come cosa, non lo so, e non mi butta giù proprio per niente a me, capito? Questo se mi prende un po' del mare, e mi poi neanche ne ho un raffreddore, non è un raffreddore, però c'ho questa gola un po' infiammata e niente, però non mi butta giù, dai, queste influenzine così non mi butta giù a me, dico la verità, io mangio tranquillamente, no, mi dà un po' di fastidio di cose, però non mi butta proprio a me, tanta gente mette febbre, non febbre, è difficile che mi entri a me. Non so se l'ho mai avuto, non lo so, però è difficile che mi venga la febbre. È ok, vuol dire, ma dipende da fisico. Evidentemente a me lo stesso come febbre no, magari mi prende un po' addolorimento, un po' da mal di gola, e dipende tutte dalle nostre difese immunitarie, capito? Però logicamente sono periodi, un po' umidità, un po' caldo, esci fuori, un po' ti pecca e bisogna stare un po' all'ordine. Va bene, ok. Riprendi Gianni. Ok, stasera ti ascolto. Una schiuma pesata essa, non so che apparato stai usando, comunque ti ascolto più delle altre cose, tanto te l'ho detto io, se no me l'avresti chiesto tu, Santiago e 7, la radio e 5 perfetta, te l'ho detto io quando mi avevi invitato lo Sandro al secondo, al terzo passaggio me lo chiederà, ripetimi a tu. Positivo, sì, no, Sandro già si è abbastanza bene. Cappa, riprendi Sandro e poi girare per Gigi. Ok, mi sembra che c'è stato un break, ho registrato il sottofondo. Gianni, cosa ti posso dire? Il classico Midland Alan 88 con una piccola regolazione, mi stocco con l'MB più 4 stesso, ho fatto qualche accorgimento sul microfono, e una piccola stufettina giusto per dare un po' di spunto, non so altro, tutto lì. Logicamente non sono Porro Torres, sono qua a Cotiac a Campagna, qua a San Giovanni, tutto lì, capito? Però questo apparatino si difende abbastanza bene, ho già, tutto lì. Avanti il brecco. Ok, ti ascolto molto basso, ti ascolto quasi sottofondo, forse Antonio Forchetto ti ascolterà meglio, se non sbaglio Uranio, tutto lì. Antonio, riprendi tu che tu magari lo ascolti meglio di me. Positivo, salutoni Uranio, ben ascoltato, sì, rispetto agli altri giorni Uranio è migliorato, non so se hai fatto qualcosa all'antenna, ma è migliorato alla grande. In compagnia di Gigi Vulcano, di Sandro da San Giovanni, Marchetto e Gigi e Gianni Capridu e Dan Unos. Capa, vieni avanti per chi vuoi. Capito, io andati lì, oh Sandro. Sì. No, guarda, veramente. Veramente soddisfatto per la spesa, che è un buon apparato. C'ha soltanto adesso lo smitter, che logicamente lo smitter non è da pretendere chissà che cosa, perché logicamente è un apparatino, però diciamo che per un apparatino che è, soddisfa, va più che bene, tutto lì. Riprendi Capri. Capri 2. Aspetta, legge il 200. Il 200, buonasera. Buonasera, il 200, ben ascoltato. Salutiamo. No, veloce, buonasera, ben ascoltato, veloce. Positivo, dai, proprio per un'eccezione, veloce, un'eccezione che sto facendo stasera. Arrivare anche a Mutuso, senti a Mutuso, Sandro, a veloce. No, negativo. Negativo da parte mia, potevo sentire. Pinuccetto, se mi ascolti, super salutoni. Mi Pinuccetto. Calma, provalo, dai, provalo. Pinuccetto, buonasera. Capito da questa parte, sono entrato qui. Mi saluto che è venuto una cosa, appena sul balcone e mo la chiedo sul balcone. da Gigi fuori a chi dotto giù a cuore non si vede questa cosa. Ti dico a voi no, il mio valore non giù che giù a giocare. Sentito l'hai. A voi a Dimico, questo è il mio valore giù che mi era giù a giocare. Quella è stato tanto, non va neanche l'ascolto a lui. E infatti. Però c'è... Arnaldo Gigino... che mi dava paese lo giuro che adesso non la trae lì. Male di questa cosa, non servivi, non c'è, venditelo, venditelo, non te ne fai nulla, regala a tuo nipote. Copiato il vicino, non c'è. Va bene, avanti Sandro. È ok. Negativo da parte mia, non riesco a tirarlo fuori. Va bene signori, io ne approfitto, vi saluto, buon tutto e ce la risentiamo alle prossime. E Falché, a domani mattina. Positivo Sandrino, ok dai, io ti saluto lo stesso, fatta la buona fine serata, buon tutto, avanti Gigi, per i saluti. Sabato volevi fare sabato. Sabato? Ma questo sabato che ancora deve arrivare? È positivo. Guarda, io non so neanche, cioè, so quello che devo fare domani mattina, ma poi... è probabile pure che la mia giornata si trasformi, tu già lo sai perché, quindi non ho previsioni, capito? Non ho previsioni. Cioè che dobbiamo andare ai 4 dell'Ave Maria a Bordolo, la Crucetta, sabato, siamo in 4, siamo in 3, però ci manca il 4, quindi siamo in 4 dell'Ave Maria. Ah, ho capito. Non lo so, guarda, ben volentieri, ma da qui già ci sentiamo, intanto penso che ci sia anche torre di controllo. Ci siamo in 4, torre di controllo, Falchetto e io, ho capito, solo non di più perché se non c'è, ha detto non più di 4 perché non c'è posto. Ho capito, diciamo che al posto limitato, va bene. No, mi farebbe veramente piacere, guarda, così magari avrei anche l'onore di conoscere la Falchetto e dargli la pacca sulle spalle. Falchetto, consenso buono sempre, eh? Positivo, è a parola, ok, no, va bene, dai, noi ci sentiamo domani mattina. Ripeti tu Gigi che mi sembra sia entrato Pinocchetto. Ciao Sandri, dai, fatti buon proseguo, lasciate al vostro tempo, però... Veloce! Non c'è più Veloce con la multa. Tornando a me, basta andare. Saluto le belle allora, buono. Gigi l'ha salutato, le sta chiudendo che deve andare a trabaccare domani. Ho sentito, c'è anche qualcuno in banda laterale. Va bene, Piruccetto, ci sei? Piruccetto, Gigino sta chiudendo che domani devo andare a trabaccare, non so se hai copiato il passaggio, confermi. Guarda, se vengono gli altri vengo anch'io, garantito al 100%. Se viene Claudio e Gigino, vengo anch'io, capisci? Non c'è problema, Pinucci. Veniamo giusto a farti una visita, dai. Tutte le migliori, Uranio, e tante cose belle, dai, ciao Uranio.